Mix 24 di Giovanni Minoli. Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, buongiorno. Buongiorno, ecco, a voi. Dire, come ha detto il neopresidente Davigo, che i politici rubano più di prima, ma adesso non si vergognano, cosa vuol dire? È stato detto in questi giorni, una premessa deve essere chiara, è ovvio che siamo tutti contro i ladri e contro ovvio. Il ruba. L'articolo 27 della Costituzione dice una cosa, che la responsabilità penale è personale, quindi io penso che ogni forma di generalizzazione rischia di sortire l'effetto contrario. Non si capisce poi chi è che realmente ha rubato. Ecco, ma la NM è tutta schierata sulla linea di Davigo? C'è stato un dibattito in questi giorni, io sono rimasto anche stupito del fatto che nella giornata di ieri si è molto parlato di questo tema, di questa discussione. Ci sono stati dei comunicati, c'è stato il comunicato di Aria, c'è stato il comunicato di Magistratura Indipendente. Cioè sono posizioni differenti? Sono state delle posizioni differenti dove hanno rimarcato la diversità di opinioni e idee rispetto a quelle che erano state espresse le opinioni da rispetto al Presidente Davigo. Poi a certa stampa, questo me lo lasci dire, fa piacere enfatizzare le singole posizioni individuali. Vabbè, ognuno con la sua sensibilità, certo, naturalmente. Bisognerebbe dare realmente il quadro di quella che è la situazione interna. E da questo punto di vista suggerirei a tutti un'attenta lettura di un articolo che ieri è apparso sul Sole 24 Ore a firma di Donatella Stasio, che a mio avviso è molto lungimirante e fotografa da par suo la realtà. Senta, il dottor Cantone dice che non è una linea che aiuta la lotta alla corruzione, questa linea di Davigo. Ha ragione? È un'altra opinione che indubbiamente deve essere presa in considerazione, poi viene da parte di chi è il presidente dell'ANAC. Non possiamo negare l'impegno che anche Davigo ha messo nella sua carriera sul tema naturalmente della corruzione. Però adesso stiamo parlando d'altro. Ovviamente di altro. Io penso che determinate idee che ha espresso Davigo sulla corruzione possono non avere la condivisione. Penso lei, spiate, che così come è stata tradotta volgarmente, che è un punto di vista, a mio avviso sono necessarie altre cose. Prima fra tutte quella di rivedere la disciplina della prescrizione. Naturale. Senta, dottor Palamara, lei ha detto non dobbiamo cadere nella trappola del conflitto che ha toni nostalgici, cioè nostalgia di che cosa? Di Tangentopoli? Di quel momento lì, di quella cultura? A me sembra che in questo paese ci sia quasi una sorta del gioco dell'oca, si ritorna sempre al punto di inizio. Cioè, Tangentopoli ha rappresentato una vicenda direi cruciale anche nella storia giudiziaria del paese. Ma non dovrebbe aver insegnato qualcosa sia alla politica che alla magistratura Tangentopoli? E io direi senz'altro di sì, soprattutto alla politica, la necessità di mettere mano alla una seria lotta alla corruzione, alla magistratura di perseguire i reati senza rischiare la strumentalizzazione che si è verificata in quegli anni anche dopo, quando i singoli avvisi di garanzia vengono utilizzati per finalità politiche. Esatto. Questo è il grande tema che a mio avviso in questi giorni alcuni non hanno ben centrato, perché se noi utilizziamo la magistratura come strumento perché una parte politica prende il sopravvento sull'altra, siamo completamente lontani dalla realtà e rischiamo di mettere in discussione tutto il sistema di equilibrio tra i poteri dello Stato. Ecco, senta, dottor Palamara, ma i magistrati devono applicare la legge o affermare una loro superiorità morale? È ovvio che devono applicare la legge, il che non significa che non possano esprimere idee e opinioni. Se noi però scambiamo il magistrato come un fustigatore dei costumi della società o come una sorta di censore, secondo me travalichiamo completamente dal ruolo che il magistrato deve avere senta, deve far sentire la voce, dare il contributo. Vabbè, le opinioni sono opinioni, certo. Infatti il passaggio che si parla solo con le sentenze io non lo condivido, perché se ad esempio c'è l'iter di approvazione di un'importante legge, è quanto mai opportuno che chi conosce la realtà possa esprimere le sue opinioni, e da questo punto di quindi vista quindi ha torto Renzi su questo punto ruolo, io lo integrerei a ma si parla solo con le sentenze, che la funzione dell'ANM deve essere proprio quella di portare come è un sindacato stato, naturalmente un contributo tecnico su quella che è l'impatto che una legge può avere sul sistema. Ecco, senta, è un ruolo fondamentale. Senta, ma dire i buoni siamo noi, i cattivi sono loro, non è come dire non ci sono né buoni né cattivi? Sono perfettamente d'accordo, perché questo è il nostro compito, ripeto, è quello di accertare le responsabilità individuali, se un cittadino, se esso un politico, se esso un cittadino comune, sia un imprenditore, hanno commesso fatti penalmente rilevanti. Senta, dottor Palamara, un magistrato in prima linea all'epoca di Tangentopoli, Ilda Bocassini, tempo fa in un convegno, ha detto parole importanti e coraggiose. Senta. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco, che effetto le fanno queste parole? Pagherò i diritti d'autore alla Boccassini, però è inutile negarlo. È inutile negarlo che ci sono stati questi casi. Senta, e ma negarlo significa essere miopi. Ecco, ma la deriva corporativa è una tentazione per la magistratura sempre in agguato oppure no? È un rischio che va evitato, che richiede l'impegno dei magistrati più avveduti e soprattutto la necessità che oggi ci siano dei punti di riferimento reali e importanti all'interno. Senta, della magistratura. Dottor Palamara, un tema caldissimo è quello delle intercettazioni, che è sono ovviamente uno strumento indispensabile per le indagini, ma l'uso come deve essere? L'uso deve essere un uso disciplinato, l'abbiamo ribadito e occorre dirlo con chiarezza. Le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per le indagini, per reprimere fatti di mafia, di droga e di criminalità. Tutto. Che oggi ci si interroghi su quello che debba essere portato all'esterno, su quello che è rilevante e irrilevante, secondo me è fondamentale. Ecco. È lo stesso discorso che facevamo dell'avviso di garanzia. Se io devo indagare su un politico, lo faccio perché mi serve per l'accertamento della responsabilità individuale. Se invece quel materiale intercettato mi viene utilizzato fuori per colpire la maggioranza, ad esempio, di un governo anziché di un altro, io penso questo bisogna interrogare. Questo per quanto riguarda la politica, però esistono anche i cittadini normali. Senta, che cosa dice il dottor, un grande magistrato come il dottor Pignatone, a proposito degli effetti della pubblicazione dell'individuo prima dell'accertamento della verità? Senta qua. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto, una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, dottor Palamara, come si fa a difendere le intercettazioni come strumento di accertamento della verità, ma difendere anche il diritto alla privacy delle persone? È Pignatone che parla qua. Io spero che le parole che sono state trasmesse adesso del procuratore Pignatone siano ascoltate anche da parte di coloro, sia politici sia magistrati, che troppo facilmente trattano il tema delle intercettazioni. Devono essere un monito per trovare un punto di equilibrio. Ecco, parliamo del punto di equilibrio. Perché nell'udienza preliminare non si riesce a separare ciò che serve alle indagini, parlo di intercettazioni, da ciò che è privato? Perché non si riesce a separarlo? Perché la realtà delle indagini, la realtà di quello che avviene in Italia, che spesso, soprattutto parlo dei maxi processi di droga contro i narcotrafficanti, c'è una mole di intercettazioni talmente enorme che viene scaricata, mi perdoni la parola, sul dibattimento, sul processo, e non ci si riesce a mettere mano. Ma chi è che dovrebbe fare questa separazione? C'è qualcuno? Perché l'opera di selezione è un'opera che deve essere fatta dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Che cosa avevamo suggerito? Una delle idee, di individuare un luogo, che poteva essere la cosiddetta udienza stralcio, un luogo nel quale davanti a un giudice il pubblico ministero e la difesa discutono di ciò che serve al processo e di ciò che invece è irrilevante. Però non capita. Come purtroppo non c'è il termine obbligatorio, e quindi questo crea tutta questa situazione nella quale un'enorme mole di intercettazioni viene, tra virgolette, una parte portata al processo, quella che serve, l'altra lasciata così in sospeso, utilizzata per altri fini. Senta, questo bisogna trovare l'equilibrio. Ma bisogna trovarlo, però. Ecco, la strada, secondo me, appunto quella che diceva, rendere obbligatoria l'udienza stralcio. Senta, il presidente, per chiudere, il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime degli Errori Giudiziari ha detto, ha scritto la stampa di ieri, ha detto che ogni anno 7.000 italiani finiscono in carcere o ai domiciliari e poi sono assolti. Cos'è che non funziona? Allora, anche qui non dobbiamo cadere nell'eccesso opposto. Sì. Non possiamo dire che va tutto male, perché alla magistratura vengono arrestati i mafiosi, confiscati i patrimoni interi. Sicuramente l'errore, purtroppo, non voglio dire fisiologico, è un qualcosa che esiste e che toglie il fiato, il respiro a chi lo commette. Compito del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere quello di isolare coloro i quali commettono errori che cagionano un documento alla magistratura, e da questo punto di vista io penso che sicuramente dei cambiamenti interni si stanno registrando. Questa è la strada sulla quale dobbiamo perseguire. Il discorso dell'autoriforma della magistratura alla quale teniamo passa attraverso la capacità di saper comprendere le situazioni che non vanno, di saper dare una risposta anche efficace all'interno, come dico io, per evitare i cosiddetti atti emulativi. Vabbè. Noi abbiamo bisogno di elevare la qualità professionale dei magistrati anche attraverso queste situazioni. Grazie, dottor Palamara. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, c'è una bolla? Vuoi una bolla? No, intanto che dici di quello che ha detto Palamara? Ma ti dico che la posizione di Palamara è molto ragionevole, secondo me. È molto equilibrata, ragionevole, molto diversa da quella di Davigo, ovviamente. Offre anche, secondo me, delle soluzioni a portata di mano del legislatore. Infatti, questa mi sembra un'idea utile. Quella che è la cosa più interessante. Ho l'impressione che Davigo abbia fatto un passo un po' più lungo di quanto in realtà la sua associazione pensi. E questo è un po' quello che sottolineava, se ho capito bene. Pietrangelo, che non è qui con noi, ma è collegamento, tu un'opinione? L'opinione è dettata dalla realtà dei fatti, dalla sostanza. Molto spesso la macchina della giustizia coincide con, Dio ce ne scampi, quella della salute. E chi si ritrova dentro quel macchinario, quell'ingranaggio, deve fare i conti più con la buona sorte che con la giustezza delle regole. Senti, Mario, c'è una bolla? Adesso ce l'ho. Dobbiamo pur ricordarlo anche noi, no? È stato un grandissimo in tutti i sensi. Questa è Purple Rain, interpretata da un gruppo di chitarristi in un album che si chiama Guitar Battle, e sentite che cosa meravigliosa. Allora, siamo al G5, Giovanni, stanno succedendo cose molto interessanti intorno a noi, quindi bene guardare l'Italia, ma guardiamoci anche intorno, anche perché partecipiamo. C'è un nuovo format, o seminuovo se vuoi, che è questo G5, Obama ad Hannover, oggi incontra Angela Merkel, che è la padrona di casa, insieme a David Cameron, François Hollande e Matteo Renzi. Quindi l'Italia è dentro questo G5, e c'è, non a caso, perché l'agenda ci riguarda da vicino. In agenda ci sarà una discussione sulla guerra in Siria, la discussione sull'intervento in Libia, il bilancio della NATO che preme molto a Obama per far risparmiare gli americani e aumentare invece il nostro contributo europeo, l'emergenza immigrazione ovviamente, e le crescenti fratture in Europa con la Brexit da una parte, adesso abbiamo pure questo mini caso dell'Austria. Insomma, ci sono cose interessanti. Non è un vertice da grandi decisioni. Obama non risolve i nostri problemi. Stamattina il Wall Street Journal diceva che aumenterà l'intervento in Siria, però nel bilaterale, con la Merkel si è parlato del trattato di commerciale, no? Sì, certo. Perché quella mi sembra la sostanza importante dell'incontro, eh? Come diceva Gordon Gekko, money never sleeps, il denaro non dorme mai per gli americani. Quindi è chiaro che loro stanno puntando al trattato commerciale grande, ne hanno chiuso uno col Pacifico che andrà in vigore tra un po' di anni e stanno cercando di chiudere quello con l'Europa. No, stavi finendo il ragionamento. Il ragionamento è molto semplice: Merkel deve governare l'Europa senza far irritare il contribuente tedesco, quindi ha quel problema là. Cameron ha il problema della Brexit. Obama non vuole impegnarsi più di tanto nel Mediterraneo, Hollande è in stato di emergenza economica, emergenza di sicurezza, c'ha le presidenziali, resta Renzi, il quale Renzi ovviamente ha i suoi problemi, ma soprattutto in questo momento, prima dell'estate, deve stare attento a non farsi fregare, la parola giusta, da inglesi e francesi sulla Libia. E cioè di non ritrovarsela sul gruppone, esatto, senza soluzioni preventive. Devo dire che col senno di poi è stata una politica saggia. Sì, è stata una politica abbastanza accorta. Speriamo che il governo provvisorio dell'ONU vada avanti. Su questo, insomma, i dubbi sono ancora tanti. Salamino. Abbiamo una banca, diceva Piero Fassino, al tempo leader del PDS, DS, PD, che dir si voglia, insomma, capo dei comunisti qual era. Ma gliene incolse con quella frase, perché a quel tempo, neppure 10 anni fa, valeva la maledizione di Lenin sul capitalismo. Ci venderanno la corda con cui l'impiccheremo. I tempi cambiano. Le banche fanno la sostanza del proletariato al governo. Il PD, ovvero l'erede del PC, PDS, DS, che dir si voglia, non solo ha una banca, e notoriamente le cronache parlano di quella Etruria, mi pare. Etruria? Ma ne esce, papà? La. Sì. Ecco. Vabbè. No, ecco, non c'è solo la banca Etruria, ma anche due. Report, la trasmissione di Milena Gabanelli, grazie al lavoro giornalistico di Sigfrido Ranucci, ha portato alla luce un episodio significativo assai. Banca Etruria. Ma non è suo papà? Cosa ha fatto questa banca, ecco, non diciamo quale, fa la cresta sui gettoni d'oro che fornisce alla RAI, quelli che servono per le vincite nei telequiz. Cioè l'istituto, vabbè, di Renzo, sono soldi regalati, dai. Soldi regalati. 1,01 in più o 1,01 in meno d'oro, pazienza. Con la gratuccia. Cacchio, nel lungo termine la cifra, direbbe Totò, si fa congrua. Comunque, secondo report, per ogni chilo ne mancano 5 grammi. Allora, la RAI acquista ogni anno tra i 6 e i 10 milioni di euro in gettone e l'ammanco, e oggi per esempio Stefano Zurro sul giornale fa un calcolo, insomma, vabbè, potrebbe essere colossale. Altro che abbiamo una banca, non una ma due, e la più soave tra gli eredi del proletariato, il Lotta, ovvero Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, non ha soltanto la banca, quella della canzone che scappa, ma dove appunto fu vicepresidente, ma a sentire Clemente Mastella, che ne fa una circostanziata denuncia, pure Monte dei Paschi di Siena fa da sponsor, utilizzano i numeri degli elenchi dei propri clienti per invitarli a partecipare al comizio della Boschi. Qui urge Bertolt Brecht. Per me è molto più criminale fondare una banca piuttosto siamo, che rapinarla. Siamo e in chiusura. Allora, quale altro inno se non piange il telefono? Piange il telefono, perché lei non... Mario, c'è ancora una bolla. Sì. Una bolla veloce. Sì, velocissimo. Ma Vabbè, a me piace sempre tantissimo. Te, Kiss, bello, no? Prince, bello. Sempre Prince. Ancora poco a poco? Mi dicono di stringere, stringiamo! Allora, Giovanni, non podemos. Oggi non il podemos. Re di Spagna terrà un altro round di colloqui per la formazione del governo dopo le elezioni. Se entro il 2 maggio non si trova un accordo di coalizione, gli spagnoli tornano a votare. Ricordo a tutti che le elezioni in Spagna si sono tenute il 20 di dicembre e oggi, 25 aprile, giorno della liberazione, questi sono ancora senza governo. E allora a tutti gli esterofili di questo nostro strano paese dico, guardate anche dalle altre parti, che non è che siano tutti migliori di noi. Bene, che per la storia, esatto. Oggi il 25 aprile, naturalmente racconteremo la storia della liberazione di Milano su Mix 24, cronaca di quei mesi fino alla liberazione a Piazzale Loreto subito dopo la pubblicità. Ma prima di chiudere, Gloria Guerrera anche oggi dedica una canzone a tutti noi. Una canzone per quando chiediamo a una canzone di rivelarci. Lucio Dalla, Canzone. Ho un materasso di parole scritte apposta per te. Ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Non si vive, mi uccide.